Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. A un certo punto squillò il telefono. Telefonavano dalla cucina, per sapere se e quando avrebbero dovuto portare di sopra il vassoio della cena. Nicole dichiarò che per ora non aveva fame e che avrebbe richiamato lei più tardi. Se le andava la minestrina in brodo? Rispose con una smorfia a una precisa domanda che le venne dal microfono. Sì, certo. Comunque non stessero a preparargliela fin da adesso, per favore. La roba lunga lei non l'aveva mai potuta soffrire. Posato che ebbe il ricevitore, si volse verso di me. Mi fissava con occhi insieme dolci e gravi, e per qualche secondo non disse niente. «Come va?» domandò infine, a voce bassa. Inghiottii. «Così, così». Sorrisi e mi guardai attorno. «È strano come ogni particolare di questa stanza corrisponda esattamente a come me l'ero immaginato», dissi. «Eccola la recamie, per esempio. È come se l'avessi già vista, ma del resto l'ho vista». Le raccontai del sogno che avevo fatto 6 mesi avanti, la notte prima che lei partisse per Venezia. Indicai le schiere dei lattimi, baluginanti in penombra sui palchi dei loro scaffali, gli unici oggetti lì dentro, dissi, che nel sogno mi fossero apparsi diversi da quel che erano nella realtà. Spiegai sotto che forma li avevo veduti, e lei stava ad ascoltarmi, seria, attenta, senza mai interrompermi. Quando ebbi finito, mi sfiorò la manica della giacca con una lieve carezza. Allora mi inginocchiai di fianco al letto, l'abbracciai, la baciai sul collo, sugli occhi, sulle labbra, e lei mi lasciava fare, però sempre fissandomi e con piccoli spostamenti del capo, cercando sempre di impedirmi che la baciassi sulla bocca. «No, no», non faceva che dire, «smettila, ti prego, sì, buono, no, no, può venire qualcuno, no». Inutile. Piano piano, prima con una gamba e poi con l'altra, montai sul letto. Ora le gravavo addosso con tutto il peso. Continuavo a baciarla ciecamente sul volto, non riuscendo tuttavia che di rado a incontrare le sue labbra, né tantomeno a ottenere che abbassasse le palpebre. Infine le nascosi il viso nel collo, e mentre il mio corpo, quasi per proprio conto, si agitava convulso sopra quello di lei, immobile, sotto le coperte come una statua, di colpo, in uno schianto subitaneo e tremendo di tutto me stesso, ebbi il senso preciso che la stavo perdendo, che l'avevo perduta. Fu lei la prima a parlare. «Alzati per piacere», udii che diceva, vicinissima al mio orecchio. «Così non respiro». Ero annientato, letteralmente. Scendere da quel letto mi appariva come un'impresa al di sopra delle mie forze. Ma non avevo altra scelta. Mi tirai su in piedi. Feci qualche passo per la stanza, vacillando. Infine mi lasciai cadere di nuovo nella poltroncina a fianco del letto e mi nascosi il viso fra le mani. Le guance mi scottavano. «Perché fai così?» disse Nicole. «Tanto è inutile». «Inutile perché?» chiesi, alzando vivamente gli occhi. «Si può sapere perché?» Mi guardava, con un'ombra di sorriso aleggiante attorno alla bocca. «Non vuoi andare un momento di là?» disse, accennando all'uscio a muro del bagno. «Sei tutto rosso, rosso in pizzà. Lavati la faccia». «Grazie, sì. Forse è meglio». Mi alzai di scatto e mi diressi verso il bagno. Ma ecco, proprio in quel momento, la porta che dava direttamente sulle scale fu scossa da un urto vigoroso. Sembrava che qualcuno cercasse di entrare a forza di spallate. «Cosa c'è?» bisbigliai. «È Ior», rispose calma Nicole. «Va ad aprirgli». Dentro lo specchio ovale che sormontava il lavandino vedevo riflessa la mia faccia. La esaminavo attentamente, come se non fosse la mia, come se appartenesse a un'altra persona. Benché l'avessi tuffata ripetutamente nell'acqua fredda, era ancora tutta rossa, rossa impizzata, come aveva detto Nicole, con macchie più cupe fra il naso e il labbro superiore, in cima e attorno agli zigomi. Scrutavo con minuziosa oggettività quel grande volto illuminato, lì, davanti a me, attratto via via o dal battito delle arterie sotto la pelle della fronte e delle tempie, o dalla fitta rete di venuzze scarlatte che, a spalancare gli occhi, sembrava stringere d'una specie di assedio i dischi azzurri delle iridi, o dai peli della barba, più fitti sul mento e lungo le mascelle, oppure, magari, da un foruncoletto appena visibile. Non pensavo a nulla, propriamente. Attraverso la sottile parete divisoria udivo Micol parlare al telefono. Con chi? Col personale di cucina, era da supporre, per avvertire che le portassero di sopra la cena. Questo certo avrebbe reso meno imbarazzante a tutti e due il prossimo commiato. Entrai, che abbassava il ricevitore. E di nuovo, non senza meraviglia, mi resi conto che non aveva niente contro di me. Si sporse dal letto per riempire di tè una tazza. «Adesso, per piacere, siediti», disse, «e bevi qualcosa». Obbedii in silenzio. Bevevo adagio, a lente sorsate, senza levare gli sguardi. Sdraiato sul parquet alle mie spalle, Yor dormiva. Il suo greve rantolo di accattone ubriaco riempiva la stanza. Posai la tazza. E fu ancora Micol a cominciare a parlare. Senza affatto riferirsi a ciò che era successo poco prima, esordii dicendo come da molto tempo, da molto più tempo, forse, di quanto io non immaginassi, si fosse proposta di discorrermi, francamente, della situazione che a poco era venuta creandosi fra noi. Non ricordavo mica quella volta, proseguì, nell'ottobre scorso, quando, per non bagnarci, eravamo finiti nella rimessa, andando poi a sederci dentro la carrozza? Ebbene, fin da quella volta là, lei si era accorta della brutta piega che stavano prendendo i nostri rapporti. L'aveva capito subito, lei, che tra noi era nato qualcosa di falso, di sbagliato, di molto pericoloso. E la colpa maggiore era stata sua, dispostissima ad ammetterlo, se la frana era quindi rotolata ancora per un bel pezzo giù per la china. Che cosa avrebbe dovuto fare? Semplice. Prendermi in disparte e parlarmi schiettamente, allora, senza por tempo in mezzo. Invece, ma che, davvero vigliacca, aveva scelto il partito peggiore, scappando. Eh sì, tagliare la corda è facile, ma a cosa porta, quasi sempre, specie in materia di situazioni morbide. 99 volte su 100 la brace continua a covare sotto la cenere, col magnifico risultato che dopo, quando due si rivedono, parlarsi tranquillamente da buoni amici è diventato difficilissimo, pressoché impossibile. Non c'era molto altro da dire. Di lì a poco, quando la Gina entrò con la cena, erano ormai le 9 passate, mi alzai in piedi. «Scusa, ma adesso vado», dissi tendendole la mano. «Conosci la strada, non è vero? O preferisci che la Gina ti accompagni?» «No, non occorre. Ci riesco benissimo da solo. Prendi l'ascensore, mi raccomando». «Ma sì». Sulla soglia mi voltai. Stava già portando il cucchiaio alle labbra. Dissi «Ciao». «Ciao», mi sorrise. «Domani ti telefono». Ma il peggio cominciò per me soltanto una ventina di giorni dopo, quando fui ritornato dal viaggio in Francia che feci nella seconda quindicina di aprile. C'ero andato in Francia, a Grenoble, per un motivo molto preciso. Le poche centinaia di lire mensili che era consentito spedire a mio fratello Ernesto attraverso le vie legali non gli bastavano, come egli stesso ripeteva di continuo nelle sue lettere, che per pagare la stanza d'affitto dove dormiva, a Place Vaucanson. Urgeva perciò rifornirlo di altro danaro. Ed era stato mio padre, una notte che ero rincasato più tardi del solito, mi aveva atteso sveglio, disse, apposta per parlarmi, a insistere perché andassi io a portarglielo di persona. Perché non approfittavo dell'occasione? A respirare qualche boccata d'aria diversa da questa qua, vedere un po' di mondo, svagarmi. Tutto ciò mi avrebbe certamente giovato, tanto nel fisico come nel morale. Così ero partito. M'ero fermato 2 ore a Torino, 4 a Chambéry. Infine avevo raggiunto Grenoble. Qui, nella pensione dove Ernesto si trasferiva a consumare i pasti, Ero stato subito presentato da lui a vari ragazzi italiani suoi coetanei, tutti nelle sue stesse condizioni e tutti studenti del Politecnico. Un Levi di Torino, un Segre di Saluzzo, un Sorani di Trieste, un Cantoni di Mantova, un Castelnuovo di Firenze, una ragazza Pinkerle di Roma. Più che legare con costoro, ad ogni modo, durante la dozzina di giorni che ero rimasto, avevo passato la maggior parte del tempo alla Bibliothèque Municipale a sfogliare manoscritti di Stendhal. Era freddo a Grenoble, pioveva. Le montagne, a ridosso dell'abitato, lasciavano di rado intravedere le cime nascoste dalla nebbia e dalle nuvole, mentre la sera esperimenti d'oscuramento totale scoraggiavano a uscire. Ferrara mi sembrava lontanissima, come se non dovessi tornarci mai più. E Nicole? Da che ero partito, avevo avuto continuamente all'orecchio la sua voce di quando mi aveva detto «Perché fai così? Tanto è inutile». Un giorno, tuttavia, era accaduto qualcosa. Essendomi capitato di leggere in uno dei taccuini standaliani queste parole «All lost, nothing lost», di colpo, come per miracolo, m'ero sentito libero, guarito. Avevo preso una cartolina illustrata, vi avevo trascritto sopra le parole di Stendhal, quindi l'avevo mandata a lei, Nicole, così, senza un saluto, senza nemmeno la firma, ne pensasse pure quello che volesse. Tutto perduto, niente perduto. Come era vero, mi dicevo, e respiravo. M'ero illuso, si capisce. Rientrando in Italia, ai primi di maggio, avevo trovato la primavera in pieno sboccio. I prati fra Alessandria e Piacenza macchiati vastamente di giallo, le strade della campagna emiliana piene di ragazze a spasso in bicicletta con braccia e gambe già nude, i grandi alberi delle mura di Ferrara carichi di foglie. Ero arrivato di domenica, verso mezzogiorno. Non appena a casa, avevo fatto un bagno, pranzato in famiglia, risposto abbastanza pazientemente a una quantità di domande. Ma l'improvvisa frenesia dalla quale ero stato preso nello stesso istante in cui dal treno avevo visto spuntare all'orizzonte le torri e i campanili di Ferrara non mi aveva poi consentito altri indugi. Alle 2:30, non osando telefonare, già correvo in bicicletta lungo la mura degli Angeli, gli occhi fissi all'immobile rigoglio vegetale del barchetto del Duca, via via più vicino sulla sinistra. Tutto, di nuovo, era tornato come prima, quasi che gli ultimi 15 giorni li avessi passati dormendo. Stavano giocando, laggiù nel campo di tennis, Nicole contro un giovanotto in calzoni bianchi, lunghi, nel quale non mi fu difficile ravvisare malnate. E ben presto fui notato e riconosciuto, giacché i due, smesso di palleggiare, cominciarono a sbracciarsi in grandi gesti, con le racchette levate. Non erano soli, però. C'era anche Alberto. Emergendo oltre il margine del fogliame, lo vidi accorrere in mezzo al campo, guardare verso di me, quindi portare le mani alla bocca. Fischiò 2-3 volte. «Cosa stavo a fare là, in cima alla mura?» sembravano dirmi. «Perché non entravo in giardino, razza di tipo che non ero altro?» Già mi dirigevo verso lo sbocco di corso Ercole I, già pedalando lungo il muro di cinta ero giunto in vista del portone e Alberto faceva ancora risuonare ogni tanto il suo olifante. «Bada, non svignartela», dicevano adesso i suoi fischi sempre potentissimi, ma diventati nel frattempo in qualche modo bonari, appena ammonitori. «Salve», gridai come sempre, uscendo all'aperto dalla galleria delle roselline rampicanti. Nicole e malnate avevano ripreso a giocare e, senza fermarsi, risposero insieme con un altro «salve». Alberto si alzò in piedi, mi venne incontro. «Si può sapere dove ti sei cacciato durante tutti questi giorni?» mi chiese. «Ho telefonato parecchie volte a casa tua, ma non c'eri mai». «È stato in Francia», rispose per me Nicole, dal campo. «In Francia!» esclamò Alberto, gli occhi pieni d'uno stupore che mi parve sincero. «E a fare che cosa?» «Sono stato a trovare mio fratello, a Grenoble». «Ah, già, è vero, tuo fratello studia a Grenoble. E come sta? Come se la cava?» Frattanto, avevamo preso posto su 2 sedie a sdraio, collocate una di fianco all'altra, di fronte all'ingresso laterale del campo, in ottima posizione per seguire lo svolgimento del gioco. Diversamente dall'autunno scorso, Nicole non era in shorts. Portava una gonna di lana bianca pieghettata, molto vecchio stile, una camicetta anch'essa bianca, con le maniche rimboccate, e strane calze lunghe, di filo candido, quasi da croce rossina. Tutta sudata, rossa in viso, si accaniva a lanciare le palle negli angoli più remoti del campo, forzando i colpi. Ma il malnate, sebbene ingrassato e sbuffante, le teneva testa con molto impegno. Una palla, rotolando, venne a fermarsi a poca distanza da noi. Nicole si avvicinò per raccoglierla e per un attimo il mio sguardo si incrociò col suo. Ciò la indispettì visibilmente. Volgendosi verso Malnate gridò: «Vogliamo provare un set?» «Proviamo pure», borbottò l'altro. «Quanti games di vantaggio potrei avere?» «Neanche uno», ribatté seccamente Nicole, accigliata. «Posso concederti al massimo il vantaggio del servizio?» «Serve, su». Buttò di là dalla rete la palla, quindi andò a mettersi in posizione per rispondere alla battuta dell'avversario. Per qualche minuto io e Alberto li osservammo giocare. Mi sentivo pieno di malessere e di infelicità. Il tu con cui Nicole si era rivolta a Malnate, il suo ostentato ignorarmi, mi davano improvvisamente la misura del lungo tempo che ero rimasto lontano. Quanto ad Alberto, lui, naturalmente, non aveva occhi che per il Giampi. Ma una volta tanto, notai, invece che ammirarlo e lodarlo, non cessava un momento di criticarlo. «Ecco là un tipo», mi confidava bisbigliando, e la cosa era talmente sorprendente che, quantunque angosciato, non potevo esimermi dal prestargli attenzione. «Ecco là un tipo che, se anche avesse preso lezioni di tennis tutti i santi giorni, non sarebbe mai potuto diventare un giocatore nemmeno passabile. Che cosa gli mancava per progredire? Vediamo. Gambe? Gambe? No, di certo, altrimenti non sarebbe stato neanche quel discreto alpinista che indubbiamente era. Fiato? Fiato neppure, per la stessa ragione. Forza muscolare? Ne aveva da vendere, bastava dargli la mano da stringere. E allora? La realtà è che il tennis, sentenziò con straordinaria enfasi, oltre che uno sport, è anche un'arte. E come tutte le arti, esige un particolare talento, quella certa classe naturale, insomma, senza la quale niente, uno resterà sempre una scarpa vita natural durante. «Che cosa c'è?» gridò a un certo punto Malnate. «Che cosa avete da criticare là, voi due?» «Gioca, gioca», lo rimbeccò Alberto sarcastico, «e cerca piuttosto di non farti mettere sotto da una donna». Non credevo alle mie orecchie. Possibile. Dov'era finita tutta la mitezza, tutta la sottomissione di Alberto nei confronti dell'amico? Lo guardai attentamente. Il suo viso mi si rivelò a un tratto smunto, emaciato, come raggrinzito da una vecchiaia precoce. Che fosse malato? Fui tentato di chiederglielo, ma me ne mancò il coraggio. Gli domandai, viceversa, se quello fosse il primo giorno che avevano ripreso a giocare a tennis e per quale motivo non fossero presenti, come l'anno scorso, Bruno Lattes, l'Adriana Trentini e il resto della banda. «Ma allora non sai proprio niente», esclamò, scoprendo in una gran risata le esangui gengive. Circa una settimana avanti, passò senz'altro a raccontare, constatata la bella stagione, lui e Nicole avevano deciso di fare una decina di telefonate in giro, al nobile scopo, appunto, che fossero rinnovati i fasti tennistici dell'anno precedente. Avevano telefonato all'Adriana Trentini, a Bruno Lattes, al ragazzo Sani, al ragazzo Collevatti e a diversi altri magnifici esemplari d'ambo i sessi delle ultime generazioni ai quali l'autunno passato non era stato posto mente. Tutti quanti avevano accettato l'invito con lodevole prontezza, tale da assicurare alla giornata d'apertura di sabato 1° maggio, peccato che io non fossi potuto intervenire, un successo a dir poco trionfale. Non solamente si era giocato a tennis, chiacchierato, civettato, eccetera, ma si era addirittura ballato là nella hütte al suono del Philips opportunamente installatovi. Successo anche maggiore, proseguì Alberto, aveva ottenuto la seconda session di domenica pomeriggio, 2 maggio. se non che già dal lunedì mattina, 3 maggio, era cominciata a profilarsi la grana. Facendosi precedere da un sibillino biglietto da visita, ecco, infatti, verso le 11, presentarsi in bicicletta l'avvocato Tabet. Sì, esattamente, quel gran fascistone dell'avvocato Geremia Tabet in persona, il quale, dopo essersi chiuso insieme col papà nello studio, gli aveva trasmesso l'ordine tassativo del segretario federale di interrompere immediatamente lo scandalo dei quotidiani provocatori ricevimenti, privi tra l'altro di qualsiasi sano contenuto sportivo, che da diverso tempo si effettuavano in casa sua. Non era assolutamente concepibile, faceva sapere il console bolognesi tramite il comune amico Tabet, non era assolutamente concepibile, e ciò per ovvie ragioni, che il giardino di casa Finzi Contini venisse trasformandosi a poco in una specie di club concorrente del Circolo del Tennis Eleonora d'Este, una istituzione questa così benemerita dello sport cittadino. Per cui, alto là, a scanso di sanzioni ufficiali, per i renitenti c'era sempre pronto il confino di Urbisaglia, d'ora in poi nessun iscritto all'Eleonora d'Este avrebbe potuto essere distratto dal suo ambiente naturale. «E tuo padre?» domandai. «Che cosa ha risposto?» «Che cosa vuoi che rispondesse?» rise Alberto. «Non gli restava che comportarsi come Don Abbondio, inchinarsi e mormorare, disposto sempre all'obbedienza». Credo che più o meno si sia espresso così. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it